7, capitoletto 7. Scusami, disse a Teneramata, ti sto sentendo chiaramente ed il suono si propaga a 343 metri al secondo. Qui tra l'altro ci si fa una cultura, o meglio si ripassano tutte quante queste bellissime cose, no? 343 metri al secondo è tanta roba. Dice, aspetta, quindi guardate questo com'è intelligente, no? Quindi in questa conversazione qui nella sala sono passati almeno diversi minuti e non millesimi di picosecondo. Capite il ragionamento che fa, no? Se il suono si propaga a 343 metri al secondo, ci siamo già detti un sacco di chiacchiere, quindi le chiacchiere io le sento con le orecchie, quindi tu emetti dei suoni, è impossibile che stiamo dentro il paratempo del picosecondo, ricordiamo qualche puntata precedente, no? E la risposta di Teneramata, attenzione, non ti allarmare per ciò che sto per dirti. In realtà non stiamo comunicando mediante parole udibili, ma mediante idee. Ora, io mi permetto di glossare, chiosare questa frase dicendo che non c'è assolutamente niente di cui stupirsi perché gli angeli, si legga San Tommaso d'Aquino, comunicano attraverso questo modo. Cioè, gli angeli non comunicano attraverso i suoni delle nostre corde vocali, no? Come fanno a comunicare? Supponiamo che io adesso stessi zitto. Chi lo sa come fanno se fanno una trasmissione in diretta? In diretta Telegram con 150 persone partecipanti? Vabbè, sarebbe un po' più difficile, no? Ma che... Come fanno a comunicare gli angeli? Gli angeli non parlano, quindi non parlano nel senso di non usano le corde vocali, ma parlano, parlano col pensiero. C'è semplicemente una trasmissione di un pensiero. Loro hanno la capacità di formare quel pensiero, spero di essere chiaro, nella mente di un altro angelo, che quindi percepisce quel pensiero come il pensiero dell'angelo da cui il pensiero parte. Parlano così. Ma e anche Dio quando ci parla così, eh? Dio parla solo così in questo mondo. E il problema è che noi dobbiamo imparare a decifrare quali sono i pensieri di Dio, quindi quali sono quelle che si chiamano le ispirazioni. Dio parla solo così a noi, qui in questa vita. Pure il diavolo purtroppo ci parla così, perché pure lui ci manda i suoi pensieri, con le tentazioni. Quindi nessuno... Per chi sa un pochino di queste cose, non c'è proprio niente di cui stupirsi, no? Un'altra sorpresa, dice Riccardo. Non stavamo parlando. Era incredibile, ma dovetti darle ragione. Perché se ci trovavamo in una frequenza temporale di 1.000 milionesimi di picosecondo, ormai ci siamo familiarizzati, era logico che non si propagasse il suono delle parole. Da buon fisico intelligente, si arrende. Allora di chiede, ci stiamo forse comunicando per telepatia? La comunicazione angelica non è telepatia, neanche quella con cui nostro Signore si comunica a noi. Qualcosa in più. La mia anima è in contatto spirituale con la tua. In questo modo conosco i tuoi pensieri. Controllo ed adopero il tuo archivio di memoria intellettiva, attenti, e il magazzino della tua memoria sensitiva cerebrale. Questo è un passaggio fondamentalissimo. La memoria, un passaggio utile per capire un pochino di antropologia vera, come siamo fatti noi. Le tre facoltà spirituali, secondo gli autori, sono, l'abbiamo già visto, credo, l'intelletto, la volontà e la memoria. Attenzione però che la memoria ci consta dall'esperienza che ce l'hanno anche gli animali. Vado a vedere se tu fai una carezza al cane come se la ricorda. Vado a vedere se tu dai da mangiare a un gatto come si ricorda di venire a casa tua. Come fanno? Perché hanno la memoria. La memoria è cosiddetta associativa, no? Il pappagallo che parla, il cane che, il cavallo che ai circhi sembra che conta, eccetera, eccetera. Sono tutti quanti giochetti di memoria associativa, non sono nient'altro che questa. Ora, questo perché? Perché Perché la memoria, qui la chiama giustissimamente sensitiva cerebrale, funziona solo con l'organo corporeo. Non c'è bisogno dell'anima spirituale per avere questo grado inferiore di memoria. Quindi, perché gli animali ce l'hanno? Perché avendo l'anima immateriale, l'anima immateriale funziona esclusivamente col cervelletto che hanno. E quindi le funzioni cerebrali limitate che hanno bastano per integrare questo tipo di memoria. Ma Teneramata dice: io sto anche prendendo, adoperando il tuo archivio di memoria intellettiva. È chiaro che le cose spirituali non funzionano con la memoria sensitiva. Spirituali, non soltanto spirituali, in senso intellettuali. Cioè, io non mi ricordo che il teorema di Pitagora, che evidentemente gli animali non possono conoscere perché non hanno l'intelletto, attraverso la memoria sensitiva, ma almeno ricordo attraverso la memoria intellettiva. Proseguo la lettura. La mia anima, grazie ai suoi poteri di glorificata, attenzione, sta associando le tue idee in un modo diverso e più efficace di quello per te abituale. Apparentemente stai parlando a te stesso, ma io intervengo e riordino i tuoi concetti e immagini per esprimerti meglio il particolare messaggio che il nostro Dio ti invia e che motiva la mia presente visita. Amici, vi prego, segnatevelo. È lo stesso identico modo con cui Dio ci parla quando ci mettiamo in preghiera profonda, quando cominciamo a interrogare il nostro cuore e la nostra coscienza. Cosa fa? Ci sembra che stiamo parlando da soli. Apparentemente stai parlando a te stesso. Ma non è così. Qui dice io, facciamo che quell'io è Dio, interviene e riordina i nostri concetti, le nostre immagini per esprimerci i suoi messaggi, i suoi SMS, le sue comunicazioni, le sue ispirazioni. Fai così, non fare colà. E che motiva la mia presente visita? Quindi, con l'anima di glorificata, lei assume una capacità di comunicare a Riccardo, in maniera simile a come Dio comunica con Riccardo, appunto perché è glorificata. Se no, non potrebbe. Io non posso comunicare neanche, cioè, se io c'ho una persona reale davanti, se lasciamo perdere che sto davanti sto realmente davanti a 170 persone, ma è una comunicazione mediata attraverso gli strumenti, no? E se io sto dinanzi a una persona reale, io non posso comunicare il mio pensiero. Non posso. Zobono. Non è la nostra forma di comunicazione terrena. Non siamo angeli, siamo uomini. Però ricordate quando Gesù parla, discorso con i Sadducei, dice: una volta che stanno da quell'altra parte, sono come gli angeli del cielo, non soltanto perché non fanno più sesso, mi si perdoni l'espressione un pochino esplicita, sbrigativa, ma anche perché assumono delle modalità di essere e di comunicare simili a quelle degli angeli. Una è questa. Allora, proseguiamo. Dunque non è un dialogo questo, ma un monologo. Dice, perché che sto parlando? Perché lei gli legge il pensiero. Quindi non poi il pensiero che vuole comunicargli glielo forma in testa. Dice, quindi qui si preoccupa. Dice, non è un dialogo, ma un monologo. Lei dice, oh, stiamo in comunicazione. Ma non stiamo conversando come si fa di solito in questo mondo. Stiamo conversando quasi alla stessa maniera come facciamo noi beati con la differenza che io non ti sto infondendo le mie proprie idee, ma soltanto concerto le tue, affinché tu mi comprenda meglio, sebbene ti sembri un monologo. Dopo vedrai l'importanza di associare nel dovuto modo le idee della coscienza. Importantissimo, fondamentale. È il primo passo per formare le convinzioni profonde, ben radicate ed operative. Vedete perché, perdonatemi, questo è il mio piccolo momento di gloria. Vedete perché io in continuazione, quando parlo, dico attenzione, la coscienza, la coscienza, la coscienza. Perché se tu impari ad associare nel modo dovuto le idee nella coscienza, che è detto anche in parole. Impari a far funzionare bene il cervello, perché la coscienza, lo dicevo durante l'ora santa di ieri, per chi vuole andarsi a fare un giro, stava nell'ora santa di ieri sera, la synderesis in greco, synderesis bellissimo, è vedere profondamente insieme. È proprio questa connessione tra idee fatta nella maniera corretta, che ti permette di formulare dei giudizi corretti. Riguardo l'esempio che ho fatto all'inizio, guardate che non sappiamo che, cioè, non è che entriamo in questo qui, no? Se io voglio farmi un'idea corretta delle cose, io non devo essere fazioso. Cioè, ho già scelto la parte prima ancora che comincio a pensare. È evidente che mi sarò anche fatto un'idea su qualcosa e magari a istinto o anche a una certa prima indagine superficiale propendo verso una direzione. Questo è normale, questo qui. Però sii sempre aperto. Se no, non associerai nel dovuto modo le idee nella coscienza e quindi ti sbaglierai, formulerai delle conclusioni sbagliate oppure non formerai convinzioni profonde, ben radicate ed operative. Quando ci sono queste tre cose, guardate che non ci smonta nessuno. Non ci smonta nessuno. Voglio raccontare una storia, tanto non faccio nomi, però una storia reale. Chi mi conosce bene sa che io ormai da anni, d'accordo, tra le tante cose che cerco di come dire, di proporre, è una certa concezione della femminilità. Perché io sono persuasissimo, sono convintissimo che una delle cause, tra le tante, della decadenza profonda della nostra società è la corruzione, non solo la corruzione della donna, ma lo stravolgimento proprio della funzione della donna. Dentro questo, diciamo, operazione di ricostruzione, è a mio avviso molto importante che la donna impari a sentirsi donna e a mostrarsi come donna, quindi riscopra un proprio patrimonio, il proprio patrimonio bellissimo che è la femminilità, che si esprime anche attraverso dei gesti esterni, rinunciando in modo particolare, qui ci sono quante apparizioni mariane volete su questo qui, alle fogge esterne tipicamente maschili e riappropriandosi delle sue. Chiaro? Questo proprio detto in due parole. Allora, che succede? Questo per molte donne è un trauma, perché non ci hanno mai pensato, perché sono cresciute in un ambiente completamente fatto in un certo modo, quindi non possono passare neanche per la prima anticamera del cervello. Allora, che cosa succede? Ci sono due possibilità, tre anzi. Una persona mi sente dire queste cose qua, dice questo è fuori, questo è fuori, quindi, cioè, beata a te queste cose, non le farò mai, cioè, non c'è niente le mani, ma sto come mi pare, figura se questi sono i problemi della vita. Una possibilità. Poi c'è la seconda possibilità, l'ha detto Don Leonardo, quindi una persona che ti ritiene in qualche modo autorevole, ah, se l'ha detto Leonardo, si fa. Io non sono contento che si facciano di questa soluzione, non sono affatto contento, ve lo spiego subito perché. Oppure, terza possibilità, che dice questo? Sarà vero? Non sarà vero? Pensiamoci un po'. Prendo atto, però non lo faccio subito, ci penso. Indago, confronto. Mi formo, ci prego, con calma. Questa è la soluzione ideale. Vi dico, io ormai sono preda da quasi 20 anni, no? Queste cose le dico da sempre. Che cosa succede? Può succedere che c'è qualche persona, forse anche tra i presenti, capitano queste cose, che per qualche motivo poi a un certo momento viene delusa da Don Leonardo, oppure semplicemente si cambia pastore, si trova un pastore più bello in senso soprannaturale ovviamente, no? Quindi più santo, più forgiato, più interessante, eccetera, eccetera, e magari quest'altro pastore non ha le stesse convinzioni profonde e radicate operative di Don Leonardo. Allora che succede? Se tu hai cominciato a vestirti in modo femminile, perché lo diceva Don Leonardo, tu cambi pastore, sai che succede? Che c'è il pericolo che dopo qualche tempo sarai conciata come, non dico una spogliarellista di Las Vegas, però di nuovo in termini abbastanza intraprendenti, quindi non soltanto in foge maschili, ma anche vicini al confine tra l'indecenza e la decenza. Io l'ho viste queste cose, perché mi sono arrivate le foto di persone che a un certo punto e che sembravano, se tu vedevi le foto prima, sembravano insomma aspiranti suore, per quanto insomma esagerando avevano, come dire, interiorizzato certe cose. E dopo, che è successo? Io mi sono interrogato. Non c'è altra risposta che questo. Hanno fatto una cosa non perché avevano la convinzione profonda, ben radicata ed operativa, ma semplicemente per l'oracolo che aveva parlato. L'oracolo, capite? Io non voglio assolutamente che succedano queste cose. Cioè, io offro stimolazioni, certamente, quindi cioè, una catechesi è sempre una provocazione, una stimolazione, ma non bisogna metterla in atto a pappagallo. Cioè, non è la persona. Ma è l'autorevolezza degli argomenti eventualmente, perché se quegli argomenti ti convincono, benissimo, mettili subito in pratica. Perché questo è importante? Perché tu le tue scelte le fai davanti a Dio. Se quello che ti dice Don Leonardo è corretto, è vero, anche se Don Leonardo si dovesse impazzire, o anche se tu dovessi cambiare pastore, quella cosa rimane. Perché non l'ho fatta perché me la diceva Don Leonardo, ma perché quello che diceva Don Leonardo è vero e io l'ho riconosciuto, interiorizzato come tale, ne sono profondamente convinto e lo difenderò fino alla morte. Dio stesso vuole che ci formiamo le convinzioni profonde, ben radicate ed operative. Va bene, vado avanti, se no non finiamo il paragrafo. Lei aveva ragione. Commenta, in questo consiste la vera educazione. E qui di nuovo il mio momento di gloria. Io sono convintissimo che proprio questo deve fare un sacerdote, abilitare, attrezzare le persone in questo modo. Questa è educazione. Perché le cose che tu interiorizzi in questo modo le porti per tutta la vita e non te le toglie nessuno. E le difenderai e ci combatterai e non le svenderai e non cederai, manco morto. Vogliamo fare un esempio, l'esempio classico di questi anni, no? La comunione. Chi è che è stato capace di rinunciare anche per mesi alla comunione sacramentale? Chi aveva delle convinzioni profonde, radicate e operative. Perché se io non ci riesco, ho capito che non si deve fare per nessun motivo, questa è la mia convinzione, di prenderlo, non è che se l'ostia in mano, non è che se le circostanze diventano drammatiche, estreme, cedo. Non cedo. Trovo un sistema. Capite cosa significa questo a livello di. Se invece questa cosa ti dico sì, sarebbe meglio, oppure no, sarebbe pure bene, però insomma, entro certi limiti, mi comporto diversamente. Adesso io rispetto tutti, attenzione, non stiamo adesso a come dire, a quisquiliare chi c'ha ragione e chi c'ha torto. Per questo che io dico sempre, mettili davanti alla coscienza. E non è che se arriva un oracolo, perché ci sono stati gli oracoli, che si sono messi a dare consigli concreti, che è anche escamotage, poi non ne parliamo, Allora sento quell'altro oracolo, ah, l'oracolo ha detto quello, ah, quindi io adesso mi schermo dietro l'oracolo, mi rimangio le cose in cui credevo perché l'oracolo ha detto no, adesso si può fare diversamente. Ma quando mai? L'oracolo non è Dio. Quindi se io davanti a Dio ho interiorizzato una cosa, gli oracoli possono star a parlare fino al giorno del giudizio universale. Io vado avanti. Spero che siano chiare queste cose, eh? Sono importantissime. Per queste e per tutte le nostre scelte di vita. Riprendo, lei aveva ragione, in questo consiste la vera educazione. Non basta imbottirsi di conoscenze fino a diventare un'enciclopedia ambulante. Occorre ordinare e approfittare come si deve alcune poche idee basilari, fondamentali per vivere cristianamente la vita terrena e necessarie per raggiungere il cielo. Ma come ottenere tutto questo? Tenera amata vide la domanda nella mia mente e mi rispose: solamente con l'aiuto del Signore. Ma lui è ansioso di concederlo a chiunque glielo chieda cristianamente. Come faccio ad arrivare a questa cosa qui? Quindi a formarmi un pacchetto essenziale, granitico, poche cose fondamentali e distinti su cui mi regolo e su queste non si toccano. Quali sono le priorità assolute? Con l'aiuto del Signore. Devi chiederglielo. Ah, ma lui è ansioso di concederlo a chiunque glielo chieda cristianamente. Al Signore, non all'oracolo, è al Signore. I beati conversano così come noi? Non esattamente, ma quasi. Nel cielo ci comunichiamo infondendoci direttamente le nostre idee ed immagini. Tuttavia parliamo anche molte lingue e dialetti. Questo lo dice anche questo San Tommaso, cioè dice che i beati del cielo, veramente San Tommaso dice che le lingue le conoscono tutte, perché Dio le conosce tutte. Non è escluso che la conoscenza delle lingue vari con i gradi di gloria, idea mia personale. E i dialetti, si capisce tutto. Reazione di Riccardo. Godere in cielo del piacere del linguaggio. Oh, su questo si permetta, cioè quando uno comincia a conoscere un pochino di lingue antiche e moderne, è uno spettacolo, amici cari. È bellissimo. Perché ogni lingua è meravigliosa, è bellissima, ha le sue bellezze. Cioè, è bellissimo. Adesso non, cioè bisogna, difficile comunicarlo perché ci sono delle sfumature, dei modi di costruire la frase, dei termini, i termini composti, come li fanno, le forme verbali. Una lingua le fa in un modo, per esempio, il greco c'ha 300.000 sfumature diverse, ad esempio di verbi. L'ebraico c'ha le forme intensive, le forme causative. Oh, cioè, il latino c'ha la sua ferreissima, terribile grammatica e sintassi che non si muove di una virgola proprio dall'esercito romano. Ma è bello, eh. E non è bello anche su questo fossilizzarsi soltanto su una cosa. È bello variare, d'accordo? È bello spaziare un po', capito? È bello se uno ci avesse tempo conoscere tante lingue. E senza preclusione, anche qua sta gente, ah io conosco tutte le lingue, ma il cinese mai. E perché mai? Ma se avessi tempo io studiavo il mandarino, che è una delle lingue più difficili del mondo. Ah tutte le lingue, ma l'arabo mai. E perché mai? Perché? Chi te l'ha detto che l'arabo fa schifo? Prima guardalo, poi vediamo. Ah, tutte le lingue, ma il russo mai? Oggi il russo non va molto di moda, no? È perché i russi parlano tutti così. Che ne sai? Può essere pure che sia una lingua divertente, può darsi. Che ne sai come a priori che vocaboli c'hanno, che se c'hanno le coniugazioni, so niente del russo, quindi posso parlare quanto mi pare, se c'hanno questo, se c'hanno quell'altro, quindi. Aperture. Nelle cose di Dio ha. Quando sono le cose di Dio ha apertura a tutto quello che ci mette davanti. Aperture. Godere in cielo del piacere del linguaggio. Parlare giustamente senza errori né vizi di dizione, come quelli che ho io, purtroppo. Lo sentite continuamente quando vi parlate, quando sentite le catechesi. Ogni tanto mi intruppo, mi sbaglio, dico una parola per un'altra. Queste sono miserie connesse alla nostra situazione terrena. Per evitare questa cosa dovrei parlare come, cioè mi dovrei mettere a parlare così. Faccio una prova, eh. Per evitare questa cosa dovrei cominciare a parlare così. Però, figlioli miei cari, se io comincio a parlare così, io sono morto. Nel senso che il linguaggio parlato c'ha questo fascino, d'accordo, che ha un certo intercalare, c'ha le variazioni di tonalità, di voce, di intensità. E se te sbagli ogni tanto, pazienza, questa è una miseria, ci ho fatto pace, è connessa alla nostra condizione terrena. Però la comunicazione verbale, per esempio io personalmente, se sento una persona che parla con un tono di voce che mi fa dormire, quindi il monotono, no? Quello che parla. Io mi addormo. Cioè, attenzione, questo può dire anche le più grandi verità di fede universali, ma io non ce la faccio. Conosco persone anche di elevatissimo calibro che sono così e io leggo quello che scrivono. Ah, perché se te leggi quello che scrivono vai in estasi, ma se te metti a parlare, t'addormi. Quindi in cielo ci avremo questa bellezza di poter parlare a rota libera senza però intruppasse, senza intoppasse, senza né errori né vizi di dizione. A volte si possono anche commettere errori grammaticali, specialmente se una persona non è molto, come dire, mo mo molto colta, molto istruita, se pure spia qualche verbo anche in italiano, no? L'immagine che ha classica, se sarei, non si dice se sarei, perché si dice se fossi, però magari una persona che non c'è una grandissima cultura, il se sarei te lo spara, e se te lo sparano, mi raccomando, non bisogna mortificarlo, bisogna fare finta di niente. Però è molto più facile se uno non ha una padronanza perfetta con una lingua straniera che quando parla non soltanto c'ha pronuncia difetti di dizione, ma dice pure qualche strafalcione grammaticale. E pazienza, vedete, in paradiso queste cose qua non accadono. Ecco. Ed è, sarà un gran godimento anche questo. Primo il piacere del linguaggio. Ripeto, per capire bene questa frase, secondo me bisogna conoscerla qualche lingua. Perché è chiaro che se uno sa soltanto l'italiano, dice. Ma già i dialetti, no? Io con i dialetti, quel poco che so, mi diverto tantissimo, mi diverto. Cioè, senti un napoletano, ah, io mi diverto tantissimo. Ma mi diverto tantissimo pure a sentire un bolognese, d'accordo? Oppure un toscano che c'hanno tutte quante quelle aspirazioni, d'accordo? O quegli usi impersonali. Allora, dove si va? Noi dove andiamo? Allora dove si va? Cioè, è bellissimo, cioè la varietà, gli atteggiamenti di chi dice, ah no, questa cosa fa schifo, è bello soltanto il milanese. Perché è bello soltanto il milanese? Sono belli tutti i dialetti d'Italia. È bello il milanese, è bello il romano, è bello il toscano, è bello il napoletano, è bello il calabrese, il siciliano, sono belli tutti, so. E poi che i siculi. Cioè, che stiamo a scherzare? Sono fortissimi. Anche lì è divertentissimo quando uno sente un dialetto, no? Specialmente quando poi, perché ci sono alcuni dialetti, specialmente i siciliani, quelli dell'ex Magna Grecia, che hanno tratto un sacco di parole dal greco, in dialetto. E se tu sai il greco, ti diverti a sentire il siciliano, dice, guarda questo manco lo sa, ma sta utilizzando un grecismo, no? divertentissimo. E questi sono i diretti del cielo, amici. Non sono i più grandi, Dire esattamente i pensieri, parlare giustamente senza errori né vizi di dizione. Dire esattamente i pensieri, senza dubbi, senza raggiri, senza cattiveria, senza pericoli. Troppo quando parliamo, domani è la festa di Santa Teresa. Santa Teresa dice: nel molto parlare non manca mai il peccato, perché cioè, non ce la possiamo fare. Con la certezza di essere non solo ascoltati, attenzione, ma anche ben compresi. Questo è un problema grosso nella comunicazione, perché quando uno è molto chiaro è facile che sia compreso, ma può essere frainteso. Io ogni tanto faccio qualche esempio, pure metto le mani avanti, perché capisco al volo, mentre parlo, che dico, sta attento che quello che stai dicendo, se l'ascoltasse qualcuno che... capirebbe fischio per fiasco. E ciò nonostante ogni tanto mi arrivano le mail di: ah, ma tu hai detto questo qui? E gli devo sempre rispondere all'Aristotele. Dico: guarda, figlio mio, che non ho detto questo. Ma omnia recipitur ad modum continentis, cioè le cose vengono recepite al modo del contenitore e anche in base alle tue precomprensioni che tu c'hai, per cui tu stravolgi una cosa. Che vogliamo fare? Miserie della vita terrena, che non ci saranno più, non solo la certezza di essere ascoltati. Pensate, quando stiamo parlando con qualcuno e abbiamo l'impressione che non ci stia ascoltando, no? Che fastidio che ci dà, no? Ma anche essere compresi. In questo mondo, e questo lo dice Riccardo, persona intelligente, persona saggia, occorre pensare molto bene ciò che si dice, altrimenti sarebbe fatale dire quello che si pensa. Sta dicendo un proverbio. Pensare molto bene a quello che si dice e non dire ciò che si pensa. Sapete come dice il proverbio, no? Il saggio pensa quello che dice, lo stolto dice quello che pensa. Pensate alle persone che se ne vantano: ah, io dico tutto quello che penso. E pensano di essere pure, dice, oh, io sono bravo, dico tutto quello che penso. Dico, tu sei stupido, non sei bravo. Noi non possiamo dire tutto quello che pensiamo, non solo che non possiamo, non dobbiamo dire tutto quello che pensiamo. C'è solo uno a cui possiamo dire tutto quello che pensiamo, tutto. Chi è? Facile, no? È uno che già lo sa. Però facciamo bene a dirglielo a lui, perché così ci facciamo le idee un pochino più chiare noi. Ma non possiamo dire quello che pensiamo dovunque in giro. In questo mondo non si può fare. Ah, in paradiso possiamo poi sfogarci come ci pare. Non è roba di questo mondo. È una delle. Qui scopriremo tantissime cose. Sarebbe bello dire sempre quello che si pensa. Certo che sarebbe bello se si tratta chiaramente di cose non peccaminose, ma non si può, anche quando non è una cosa peccaminosa. Allora, dice Riccardo, perché non mi infondi le tue idee anziché accomodare le mie? Attenzione, c'è una sfumatura. Io forse prima non mi sono espresso bene, o ho messo le mani un po' troppo avanti. Teneramata non sta parlando a Riccardo infondendo le sue idee in lui. Sta utilizzando le risorse mentali mnemoniche di Riccardo. Quindi è una comunicazione mentale, ma diversa. Infatti gli chiede: perché non mi infondi le tue idee anziché accomodare le mie? Dice: perché nessun mortale è capace di sopportare tanto piacere, moriresti di gusto. Anche nostro Signore, quando ci parla, non, perché se ci infondesse, cioè la comunicazione infusa, per esempio la locuzione interiore, che è quella dove Dio parla proprio direttamente, produce un godimento immenso nel destinatario. Così il diavolo, quando ci tenta, mica mica noi sentiamo dentro la nostra testa la voce brutta che c'ha. No, lui compone sempre le nostre risorse mentali per formare un pensiero di tentazione. Così capiamo un pochino di dinamiche. Lo può fare, purtroppo. perché nessun mortale è capace di sopportare tanto piacere. Moriresti di gusto. Sono 2 volte che lo dice che moriresti di gusto, eh? Non puoi immaginare quale piacere sia ricevere un'idea infusa. Equivale all'interpenetrazione spirituale, al bacio tra 2 anime. Quindi trasmettere un'idea infusa è un'interpenetrazione spirituale, un bacio tra 2 anime. Poi vedremo che ci sono anche le compenetrazioni corporali con i baci baci o i contatti compenetrativi tra corpi. Ci arriveremo. Ah, ora capisco come fai a indovinare i pensieri miei. Tuttavia tu muovi le labbra. Guardate che roba, eh. Cioè, ragazzi, oggi questo è veramente un capitolo che è veramente tanta roba, eh. Tuttavia tu muovi le labbra nel comunicarti spiritualmente con me. Se non parliamo con parole, perché percepisco questi tuoi movimenti? Capite? Cioè, allora, lei gli ha detto che non sta parlando con suoni, gli sta connettendo le idee sue, in modo tale però che lui capisca i concetti che lei vuole trasmettergli. Non può farlo attraverso comunicazione infusa, diretta, perché sarebbe una gioia troppo grande per un viatore. Dice, però tu muovi le labbra. E quindi lei risponde, per non sconcertarti. Quindi non sta muovendo le labbra perché le sta utilizzando, ma per adattarsi a Riccardo, che quando sente qualcuno che gli parla, vede le labbra che si muovono. Siccome in questo mondo non è fattibile il bacio tra 2 anime, io pronuncio le parole che corrispondono alle idee che chiarisco. Coordino e faccio passare alla tua coscienza. L'esprimo vocalmente con molto amore, poiché sono per te, sebbene sia impossibile udirle. Peccato che non debba comunicarti alcuna idea mia. Bellissimo. Fai la prova, per favore, gli dice Riccardo. Fai la prova. Lei dice, no. Qualsiasi concetto strettamente celeste che io ti infondessi agirebbe come una convinzione irresistibile e tu o moriresti di gioia, attenzione a st'altro aspetto, o perderesti quasi la libertà umana e quindi la capacità di collaborare col disegno del Signore su di te. Attenzione a questo secondo punto. La fede, amici. La fede che ci chiama, che chiama sempre in causa la nostra libertà. In questo mondo molte cose Dio non ce le dice e non ce le comunica in un certo modo perché non vuole che noi arriviamo a quella certezza incontrovertibile che non ci permetterebbe di agire diversamente. Quello che molti desiderano, ah, ma se io fossi sicurissimo e convintissimo ci avrei la fede, ma è esattamente quello che Dio non vuole. Perché se tu ci avessi una certezza incontrovertibile, tu non potresti fare altro. Non potresti fare altro e perderesti la libertà. Qui c'è una nota, le note credo che siano scritte da Don Pablo, dal traduttore, mai toglierà il Signore il libero arbitrio che ci ha donato, ad immagine della sua libertà. E se in cielo i beati non vogliono se non ciò che vuole Dio, è in virtù della loro piena conoscenza della verità, ma sempre in piena libertà. Cioè, in cielo si realizza quella cosa che in Dio è perfettissima, che si è liberi perfettamente, pur volendo una sola cosa, che è quello che Dio vuole. Non lo possiamo capire perfettamente. Dio è l'essere libero per antonomasia. Ma è anche l'essere necessitato in un certo senso per antonomasia, perché Dio sa fare soltanto il bene. Come queste cose possano coesistere in Dio, non lo possiamo comprendere perfettamente in questo mondo. Ma è così. E infatti, come si dice, le azioni ad intra di Dio sono tutte libere e necessarie. Sono, per noi questi termini sono in contraddizione. Solo quelle ad extra che Dio fa fuori di sé sono libere ma non necessarie. Vabbè, non entriamo adesso in queste cose, se no complichiamo già ancora di più la già complicata questione di tenere amata. E quindi la capacità di collaborare col disegno del Signore su di te. Meglio facciamo un'altra prova. Quando tu mi parli, toccati le labbra e vedrai che non le muovi. Stanno in comunicazione spirituale con me. Devo sembrarti un cadavere seduto, dissi allo stesso tempo che con grande sforzo mi portavo le dita alle labbra immobili. Se non ho saputo mai comunicarmi così, spiritualmente con nessuno, com'è che oggi sto conversando con te senza parole? Risposta. Non è lo stesso sapere che praticare ciò che si sa. La tua coscienza lo ignora perché mai lo aveva sperimentato, ma la tua anima spirituale lo conosce molto bene. Lo stesso che sa governare tutto il tuo organismo e dirigere le attività biologiche, intanto che la tua coscienza dorme tranquillamente o si occupa di altre cose. Anche qui abbiamo di nuovo, abbiamo di nuovo una nuova, un ribadire di nuovo, ecco che mi sono intruppato, una cosa che già abbiamo conosciuto, l'anima che sa fare delle cose di cui la coscienza non è mai stata avvertita, perché non le ha fatte prima. Dice, tu non lo sai. Dice, non è lo stesso sapere che praticare ciò che si sa. L'anima sa come fare questa cosa, ma non l'ha mai praticato. Adesso che è necessario praticarlo, perché non c'è altra forma di comunicazione possibile, perché stiamo in questo paratempo dove non è possibile parlare, perché il parlare viaggia a tot chilometri al secondo e qui stiamo molto al di sotto della frequenza del secondo e quindi non sarebbe possibile. Usa questo sistema. E questo è analogo, abbiamo visto la volta scorsa, credo, a ciò che l'anima fa, presiedendo a tutte quante le nostre funzioni biologiche, per esempio. Il cuore che batte, l'attività cerebrale che frulla, il sistema nervoso che scarica impulsi elettrici dappertutto, il sangue che circola, gli atomi che girano, l'apparato digerente che fa il suo lavoro, l'apparato escretivo che fa il suo ancora, l'apparato uditivo che fa il suo, l'apparato visivo che fa il suo, le corde vocali che adesso mi si stanno muovendo, eccetera, la respirazione, gli organi preposti alla respirazione, il naso, la bocca, i polmoni, tutte attività presiedute dall'anima, tutte, nessuna esclusa. È una plurilaureata la nostra anima, eh? Per fare tutte queste cose ci vogliono conoscenze fisiche, biologiche, chimiche, quindi matematiche, quella voglia a te a lauree che c'ha. Purtroppo noi per prenderle dobbiamo sputasangue, ma l'anima le sa già tutte queste cose. No, quindi capiamo anche un altro concetto fondamentale, attenzione, eh? Nessuno pensi che l'anima si identifica con la coscienza, il grande errore, non entro in questa, in questa cosa, evidentemente, perché se no è la fine, ma è il grande errore della filosofia post-cartesiana. Cogito ergo sum è proprio la più grossa corbelleria che sia mai stato detto. Perché significa identificare un'attività cosciente, che è il pensare, con l'essere, che è l'anima, ma l'anima assolutamente. La verità che conoscevano bene i filosofi classici non è cogito ergo sum, ma è il contrario. Sum ergo cogito, cioè pensare è un'attività connessa al fatto che io sono, ma il mio essere e quindi la mia anima, è molto di più che pensare. Perché pensare è un'attività che posso svolgere soltanto quando sono cosciente. Pensare non è la stessa cosa che sognare. Io adesso per parlare sto pensando. Nel sogno i pensieri sono ballerini, a volte sono sconcatenati, tutto il magma misterioso, insomma, che si determina nel mondo onirico, nel mondo dei sogni. Veramente è così. Dice Riccardo, ricordai che in caso di una grave infezione l'anima sa molto bene come aumentare le difese naturali, sebbene non abbia studiato medicina. Pensiamo a tutte quante le cose connesse, vogliamo fare argomento di strettissima attualità, anche con recentissime notizie di cronaca che non cito, ma si capiscono. Il nostro apparato immunitario chi è che lo governa? L'anima? Chi è che sa quando c'è una minaccia incombente e quindi dobbiamo aumentare le difese immunitarie? Chi è che fa venire la febbre? L'anima? Sapete cos'è la febbre, no? La febbre è un alzare la temperatura che è funzionale alla riproduzione, alla produzione di maggiori anticorpi nel combattimento che si ha contro agenti batterici o virus. Fa tutto l'anima. Non ha studiato medicina, ma ne sa più di molti. Vabbè. Scienziati o sedicenti tali, ma molti di più, non gli devi insegnare niente. Devi soltanto non rompergli le scatole, mi si passi il termine un po' feriale spinto, cioè impedirgli di fare quello che fa, con cose che gli fanno più male che bene. Ma devi casomai aiutarla. E qui è interrotto tanto il discorso, non so se l'abbiamo fatto in questa sede con qualche altro ciclo di catechesi, no? Il nostro benessere fisiologico sicuramente aiuta l'anima in tante funzioni che ha. Tutti quanti i comportamenti distruttivi, cominciamo a leggerli anche in quest'ottica, perché se no Teneramata rimane molto poetico. Fumare, ma assolutamente no. Assolutamente no. Tu stai facendo del male al tuo corpo e alla tua anima, fumando. Esagerare nel bere? Assolutamente no. Esagerare nel mangiare? Assolutamente no. Esagerare nel dormire? Assolutamente no. Esagerare nel lavoro mentale o fisico? Assolutamente no. Così come stirare troppo il corpo e quindi ridurre in maniera sconsiderata le ore di riposo, qui salvo i casi in cui non ci siano delle grazie del Signore, perché ci sono attestate, pluriattestate nel corso della storia della Chiesa, perché il riposo noi ordinariamente dobbiamo concedere non troppo, però il Signore può darti la dispensa. Da quello che sarebbe, diciamo così, il tuo range necessario, se ci sono delle motivazioni soprannaturali che lui ritiene opportune. Quindi comportamenti distruttivi, no. I farmaci, prima di assumere un farmaco, quando è necessario si assumono, quando non è necessario non si assumono. Prima di mettermi una cosa dentro il mio corpo, io mi devo informare bene di quello che è. E se ho qualche dubbio, è meglio aspettare, non c'è nessuna fretta. Cioè, questi sono principi fondamentali, perché la nostra vita, anche quella terrena, che è comunque un prodotto, una preparazione a quella celeste, è sacra. Saremo chiamati a rispondere a tutti quanti i comportamenti distruttivi nei confronti della nostra persona. Non parliamo evidentemente della nostra anima, la massacriamo quando, da un punto di vista morale, il massacro assoluto alla nostra anima è il peccato, no? Concludiamo, e conclude Riccardo, e concludiamo anche noi, l'ultimo capoverso di questo capitolo. Era ammirabile la conversazione con la mia anima glorificata, perché nonostante si svolgesse in mille milionesimi di picosecondo, Teneramata mi lasciava pensare con calma e guidava le mie riflessioni con tutta opportunità. E sentite che dice: se sapessimo dialogare così noi mortali sulla terra. Quindi mi lasciava pensare con calma. Ti parla e ti lascia pensare, interiorizzare, assimilare. e poi però al tempo stesso guida le tue riflessioni, no? Le cose dovrebbero sentire tutti quanti i sacerdoti devono fare questo, devono fare. Con calma, sempre nel rispetto di chi ti sta davanti, no? Nel rispetto della sua libertà, anche se sbagliata. Un esercizio sbagliato della libertà va riportato sulla retta via, va riportato, va aiutato a tornare sulla retta via. Con questa pedagogia, con questo stile, pensa, fornire l'opportunità di pensare. Per questo che il delitto più grande, l'ho sempre detto, è non pensare. Le premesse che ho fatto all'inizio di questa catechesi, che adesso capisco, alla luce di, cioè, erano sicuramente, probabilmente, diciamo, non sicuramente ispirate. Perché se tu abdichi il pensiero, è la fine. È la fine. Dio non ti può più condurre dove vorrebbe nel rispetto del tuo statuto ontologico di creatura libera, che aiutandosi con le proprie facoltà deve giungere a formarsi quelle famose convinzioni profonde, ben radicate ed operative. Ok, amici. Mettiamo punto, come diceva la buona Luisa Piccarreta, e ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana.